Oh, com'è bella l'uva fogarina, oh, com'è bello saperla vendemmiar e far l'amor con la mia bella e far l'amore in mezzo ai pra. Filar non vuol filar, cusir non lo sa far, è il sol della campagna, è il sol della campagna. Filar non vuol filar, cusir non lo sa far, è il sol della campagna, la disca che fa mal. Voglia di lavorar, la si è tolta la vestaglia, la che ancora da pagar. Filar non vuol filar, cusir non lo sa fare.